sera nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 18 settembre, il sole in regione sorto alle 6.53 e tramonterà alle 19.15. Domenica ci sarà luna nuova e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Lillo Montalto Monella. Ci sono pareri discordanti sulla vendemmia 2022, tutti concordano però sul fatto che sia difficile, dal campo alla cantina. Abbiamo chiesto il giudizio ad un esperto. Continuando a parlare di vino, il professor Angelo Floramo ci racconta la storia della ribolla negra, alias Schioppettino, che di storia ne ha molta. A seguire la querela infinita dell'etichettatura del vino, che non riesce ancora a trovare una quadra a livello nazionale. Passando alla frutticoltura, una serie di consigli per contrastare gli eventi avversi del cambiamento climatico, che non è sinonimo solo di siccità. La seconda puntata della nuova rubrica che ci curano i sommelier parte dalla bottiglia, dal suo peso, che non è direttamente proporzionale alla qualità del vino che contiene. Parlando di fiori, con una seconda puntata dedicata ai ciclamini, avremo una serie di raccomandazioni per curarli al meglio. Andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo per la settimana entrante e proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Ottima, così così, pessima. Sono tre giudizi sulla vendemmia di quest'anno, tre giudizi divergenti. Per sapere come sta veramente andando, siamo in compagnia di Rodolfo Rizzi, già presidente di Assoenologi del Friuli Venezia Giulia e direttore di una delle più importanti cooperative vitivinicole della regione. Rodolfo, come va? Questa vendemmia in effetti è il risultato di un'annata molto particolare. Noi ci siamo trovati di fronte a un problema legato alla siccità, quindi a una carenza idrica della pianta che ha colpito sia dal germogliamento della vite fino alla sua maturazione. Questo ci ha insegnato che è urgente bisogno di intervenire sul reparto idrico regionale, portando un'irrigazione di soccorso, ma un'irrigazione goccia a goccia, evitando le irrigazioni a pioggia, quindi con uno spreco eccessivo d'acqua, e creando, come sta creando oggi la regione assieme ai consorzi, assieme all'assessorato, dei bacini di raccolta d'acqua per poi poter irrigare soprattutto le zone collinari che oggi soffrono molto di più. Quindi ci siamo trovati di fronte a un prodotto che effettivamente era in carenza d'acqua. Gli addetti ai lavori hanno detto che quest'anno la vite ha dovuto pensare più a se stessa, a salvarsi, che non all'uva. Sicuramente la pianta, madre natura, fa sì che la pianta possa ricrearsi e quindi si dedica a se stessa. In effetti, dai primi controlli analitici che abbiamo fatto in campo prima della vendemmia, abbiamo trovato degli squilibri all'interno del grappolo, che erano sì dovuti alla carenza d'acqua, ma anche alla mancanza di assorbimento di certi elementi che arrivano dal terreno grazie al dilavamento dell'acqua. Da enologo, che mosti vi sono arrivati nelle cantine? Ma i mosti che sono arrivati, innanzitutto dobbiamo dire che abbiamo avuto la fortuna di avere un'uva sana e questo è stata una cosa importante. Nella prima parte di vendemmia, cioè quando abbiamo vendemmiato subito dopo Ferragosto e abbiamo vendemmiato con un caldo eccessivo, siamo stati orientati a una vendemmia innanzitutto mattutina per portare l'uva più fresca possibile, però abbiamo trovato degli scompensi all'interno del mosto dove se durante l'estate il lavoro grosso in campagna è stato a opera degli agronomi, in cantina l'enologo ha dovuto ridisegnare un po' la vendemmia, ridisegnare un po' l'enologia affinché si potesse bilanciare quello che mancava sul frutto. Più che di bianchi, una ottima annata di vini rossi, come mai? Ma dopo le piogge che sono arrivate i primi di settembre abbiamo avuto un cambio termico e questo è stato fondamentale ed è fondamentale tuttora per le uve rosse. Abbiamo delle ottime escursioni e che sta favorendo la sostanza colorante per le uve rosse e anche un'ottima gradazione. Quindi peccato che la nostra regione oggi abbia solo il 15% di uve rosse, però abbiamo delle grandi aspettative da questa produzione. Abbiamo parlato del lavoro dell'agronomo, dell'enologo, adesso del viticoltore, quello che vive di vino. Con questa vendemmia abbiamo avuto anche un ulteriore spaccato per quanto riguarda la nostra enologia. Il Friuli Venezia Giulia ha una regione che è divisa tra colline, quindi abbiamo le zone storiche, i colli orientali, il Coglio, il Carso, che hanno una viticoltura storica, una viticoltura soprattutto conosciuta e riconosciuta all'estero, e quindi questo è uno dei vantaggi importanti per la nostra enologia. La pianura, che è la parte predominante della produzione enologica, oggi è formata da tre varietà importanti, quali il pino grigio, il prosecco e la ribolla. E oggi questi tre vitigni sono a vantaggio soprattutto del Prosecco, che la sta facendo da padrona grazie al suo brand che ormai è mondiale, grazie soprattutto alle 730 milioni di bottiglie che stiamo distribuendo nel mondo. Il ruolo dei consorzi nei mercati. Oggi per essere incisivi nei mercati dobbiamo parlare di mercati esteri. Il consorzio è fondamentale per quanto riguarda la sua promozione che deve fare per i grandi prodotti. I mercati esteri si aggrediscono innanzitutto con la qualità, che è indiscussa, ma si aggrediscono con i grandi numeri. Noi abbiamo la fortuna di avere soprattutto Pinot Grigio e Prosecco, e abbiamo questi due grandi consorzi che sono dei consorzi interregionali, i quali stanno e devono per forza di cose dialogare tra di loro affinché non ci sia un divario tra le due produzioni, ma che ci sia un premio alla qualità di tutti e due questi prodotti. Dietro a ogni vino c'è una storia, l'intrecciarsi di sensibilità agronomiche e di gusto. È il caso della ribolla negra, alias Schioppettino, che di storie, come ci dice Angelo Floramo, ne ha da raccontare. Potente è la memoria che si sprigiona nelle sorsate dei vitigni autoctoni, forse perché il loro sapore è rimasto muto per secoli, fino alla loro fortunosa e sapiente riscoperta, specialmente in questi ultimi anni, in cui la ricerca storica e documentaria ha sollecitato la bravura e l'intraprendenza dei vignaiuoli. Un'eccellenza da questo punto di vista è sicuramente quel vino che i nostri antenati chiamavano ribolla negra, per distinguerla dalla gialla, capace oggi di resistere con fierezza al rischio della monocultura del prosecco. Oggi lo si appella più comunemente Scoppiettino, e gode di una storia davvero antica. Nasce tra le balze erbose delle colline orientali del Friuli, non il Collio nobilissimo, ma un'area che viene comunemente definita la Valle di Cialla, anche se quegli acini che scoppiettano freschi e dolcissimi in bocca, da cui il nome del vitigno, pendono generosi da viti che ombreggiano terreni anche più distanti, tutti interconnessi da una fitta rete di sentieri che innerva questa frontiera tra la Badia Benedettina di Corno di Rosazzo e le vallate del Natisone, terra meticcia, friulana e slava, capace di restituire paesaggi e assaggi, in entrambi i casi indimenticabili. Il primo documento che cita questo vino risale al 1282 e lo riferisce ad una festa di nozze celebrata in Albana, poi ricompare in numerosi altri documenti del secolo XIII, in cui viene menzionato come merce pregiata di scambio o ancora come corrispettivo per il pagamento di dazi e di decime alle potenti istituzioni e famiglie che controllavano il territorio. Ancora adesso le vigne abbracciano antiche pievi, chiesette campestri, muri di pietra che evocano paesaggi di tempi lontani. Rimase a lungo una risorsa per pochi palati privilegiati. I contadini la producevano, non potendo commercializzarlo, ne facevano dono prezioso ad amici e conoscenti. Oggi è diventato un modello per i vinificatori di tutto il mondo, tanto che i giovani creatori dei cosiddetti vini di tendenza californiani lo utilizzano come imprescindibile modello di riferimento. Il consiglio è quello di degustarlo in allegra e selezionata compagnia, meglio se attorno al tavolo di un'osteria, di quelle vere, di forte sapore rustico, quasi sgarbato, meglio se nel piatto di portata troneggia una carne che ha scontato i suoi peccati sulla gratella, o se si tratta di grossi bocconi di sapida cacciagione che si sono inteneriti sobbollendo nel loro stesso sugo. Il resto, vedrete, è davvero leggenda. Con Marco Malisone, responsabile tecnico economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, parliamo oggi di etichettatura dei vini, alla ricerca ancora di un accordo a livello nazionale. Forse non tutti sanno che l'etichettatura del vino è disciplinata da rigidissime norme comunitarie che lasciano ben poco spazio di manovra agli Stati membri. Dopo le ultime modifiche ai regolamenti, apportate da Bruxelles ormai 3 anni fa, si rende necessario aggiornare un decreto ministeriale che risale al 2012. Fatto sta che su questo provvedimento si sta lavorando da mesi senza riuscire a trovare un'intesa tra le proposte del Ministero e le richieste delle regioni. Anche questa settimana c'è stata una fumata nera e non escluso che la palla passi al prossimo governo dopo le elezioni. Ma dove si è incagliata la discussione? Il decreto apparentemente riguarda questioni tecniche. In realtà contiene anche scelte politiche strategiche circa la presentazione e la tutela di alcune produzioni locali sulle quali evidentemente ci sono visioni diverse. In particolare alcune regioni, tra le quali anche il Friuli Venezia Giulia, rivendicano la necessità che alcuni nomi di vitigno restino in esclusiva dei vini DOC e GT dei territori dove sono nati. Il Ministero, invece, si ostina a sostenere che tale riserva non sia possibile, anche se non ci sono norme nazionali o comunitarie che lo vietano. E tutto ciò appare in contraddizione con l'orientamento, sostenuto in tutte le sedi istituzionali, di valorizzare in termini culturali, prima ancora che enologici, vitigni autoctoni in stretta connessione con i territori di origine. Obiettivamente, se non si agisce coerentemente con opportune politiche nazionali, come può l'Italia chiedere all'Europa di legiferare per la distintività dell'agroalimentare made in Italy? Ma perché questa norma è così importante per il Friuli Venezia Giulia? Perché riguarda in particolare la ribolla gialla che, come ormai tutti sanno, negli ultimi anni è stata protagonista di una crescita esponenziale sui mercati, prevalentemente nella tipologia spumante e sulla scia del successo del Prosecco. È una varietà autoctona con una storia pluricentenaria supportata da abbondante bibliografia. Attualmente la sua coltivazione è autorizzata solo in Friuli Venezia Giulia e pertanto, dopo la perdita del Tokai, è il candidato perfetto per diventare il vino bandiera della nostra regione. Su questo punto c'è un progetto condiviso da tutta la filiera, produttori, organizzazioni professionali, consorzi DOC, cooperazione. E ciò premesso, il decreto sull'etichettatura è fondamentale perché è proprio in quel provvedimento che si andrà a stabilire se il nome ribolla gialla resterà un'esclusiva dei vini della nostra regione o potrà essere utilizzato ovunque in Italia qualora si ammettesse la coltivazione anche in altri territori. Il cambiamento climatico non è sinonimo di siccità, bensì di tutti quegli eventi estremi che stanno caratterizzando questi ultimi anni. Come contrastarli in frutticoltura? I consigli del professor Raffaele Testolino. Cambiamenti climatici non vuol dire solo caldo. La siccità l'abbiamo sperimentata quest'anno e ci ha fatto temere per i nostri orti e le nostre piante da frutto, soprattutto dopo le ordinanze di alcuni sindaci che proibivano l'uso dell'acqua potabile a scopi irrigui. Ma se quest'anno abbiamo avuto una prolungata siccità, nel 2020 abbiamo avuto piogge molto frequenti dai primi di maggio fino alla fine di luglio. Lunghi periodi di pioggia abbiamo avuto tra maggio e giugno anche nel 2019, nel 2018 e ancora nel 2013, quando, ironia della sorte, alle piogge è seguito un lungo periodo di siccità. Insomma, dobbiamo aspettarci di tutto. Registriamo sempre più spesso gelate primaverili, piogge intense, grandinate anche in aree storicamente poco toccate da questo fenomeno. Tutti eventi estremi che i meteorologi dicono caratterizzare sempre di più il clima a seguito del riscaldamento globale. Dovremmo attrezzarci, i frutticoltori professionisti sanno come fare, ma anche per noi che curiamo le piante da frutto dei nostri orti qualche soluzione c'è. Eccone alcune. Quando si mettono a dimora nuove piante da frutto è sempre bene legarle ad un sostegno, un bel palo di 8 cm di diametro di abete ben piantato nel terreno è un buon sostegno contro i venti forti. I piccoli filari di uva possono essere coperti facilmente con rete antigrandine con strutture facili da allestire che possiamo copiare dai vigneti della zona di Ramandolo. Qualcuno allestisce dei tunnel di rete antigrandine più impegnativi che coprono anche piante da frutto più grandi. Non è una brutta idea, anche se può non essere alla portata di tutti. Il tessuto non tessuto è una grande invenzione e costa poco. Può proteggere dalle gelate sia la chioma sia i fusti che vanno avvolti per il tempo che serve da fine inverno fino al momento in cui il rischio di gelate è scongiurato. Proteggersi dalla siccità è facile. È sufficiente allestire un piccolo impianto di irrigazione ad ala gocciolante dotato di un timer e possiamo permetterci anche di andare in vacanza senza preoccuparci di dover irrigare il frutteto. Vale anche per l'orto. I materiali si trovano tutti in rete sul web, o meglio, presso un garden center dove, con un po' di fortuna, potremo trovare un addetto alle vendite, appassionato e diligente, che ci aiuta a non commettere errori. Insomma, possiamo certamente pregare la Madonna di Castelmonte, ma possiamo anche darci da fare per evitare per quanto possibile i danni che provocano questi eventi estremi. Buona fortuna! La scorsa puntata avevamo presentato la nuova rubrica sui sommelier e su come bere il vino. Avevamo parlato con il presidente dell'AIS del Friuli Venezia Giulio Renato Paglia, che ci ha affidato nelle mani di Vladimiro Tulisso, che è il delegato AIS per il Friuli Venezia Giulia, che entra subito nel vivo della questione parlandoci che il peso di una bottiglia non fa la qualità del vino che contiene. Ho pensato che fosse opportuno fornire informazioni utili per entrare nella degustazione, nell'educazione al gusto, anche per arrivare a chi non è un grande conoscitore del vino e ha diritto, come tutti, di saperlo conoscere e apprezzare. Voglio pertanto iniziare questo percorso partendo dal contenitore, dalla bottiglia, quella che acquistiamo in enoteca o nelle centinaia di ottime aziende di cui è ricco anche il nostro Friuli. E per essere consumatori esigenti, nel mondo del vino è bene iniziare diffidando dalle bottiglie troppo pesanti. Una bottiglia in vetro, quella che normalmente utilizziamo a casa, da 0,75 litri, pesa vuota tra i 400 e i 500 grammi. Questo peso presenta tutte le condizioni di resistenza necessarie per conservare un vino senza bolle, cioè non un vino spumante. Sul mercato però capita di imbattersi in bottiglie che arrivano a superare anche il chilogrammo. Se ci chiediamo il perché di questa evidente differenza, la troviamo la risposta solo nel marketing. Numerose ricerche di mercato affermano che le persone attribuiscono una qualità maggiore al vino contenuto nelle bottiglie più pesanti. E questo ovviamente non può essere vero. Anche i vini eccellenti, che devono affrontare un lungo periodo di maturazione in bottiglia e hanno bisogno di vetri in grado di assorbire la luce in maniera efficace, possono trovare l'ambiente idoneo in contenitori pesanti solo 500 grammi. Vi inviterei a pesare le prossime 10 bottiglie di vino che aprirete, solo per prendere coscienza del divario tra la bottiglia più pesante e quella più leggera che incontrerete. Resterete veramente stupefatti dalla diversità di peso e avrete a disposizione un dato numerico ricordandovi che per produrre un grammo di vetro si libera in atmosfera un grammo di anidride carbonica. Le bottiglie, infatti, sono una voce importante dell'impronta carbonica del vino e ridurre il loro peso anche di poco può avere un impatto significativo se moltiplicato per i miliardi di bottiglie di vino prodotte e vendute ogni anno. Se diventiamo più esigenti, forse berremo di meglio, ma certamente berremo meglio. Seconda puntata dedicata al ciclamino per la nuova rubrica dei fiori che ci cura Alessandro Squizzato, tecnico floricoltore. Torna a parlarci del ciclamino e soprattutto come gestire un ciclamino nei modi migliori per avere piante sane e fioriture continue. Posizionare il ciclamino in un ambiente luminoso, dare molta aria e luce. Preferire la bagnatura nel sottovaso, possibilmente alla mattina, così diamo tempo alla pianta di smaltire l'acqua in eccesso e non facciamola ristagnare oltre 15-20 minuti. La bagnatura della chioma è sconsigliata perché andrebbe ad aumentare le possibilità di sviluppo di muffe e malattie. La frequenza di irrigazione è di 2-3 volte a settimana circa. Fare attenzione in caso di gelate e se la varietà non è resistente al freddo, ripararla. Va comunque detto che fino a 2 gradi positivi i ciclamini classici non hanno problemi. Togliere sempre i fiori appassiti con uno strappo deciso, senza lasciare residui nella pianta, che potrebbero marcire e quindi causare problemi. Concimare una volta alla settimana per avere fioriture continue e prolungate, con concimi dedicati o consigliati dal vostro rivenditore. Rinvasare il ciclamino l'anno successivo, con del buon terriccio, anche universale, ma che abbia capacità drenante e comunque scelto sulla base delle dimensioni del vaso. Non invasare in contenitori eccessivamente grandi rispetto alla pianta, questo perché le radici non riuscirebbero a riempire il vaso e quindi l'umidità sarebbe sempre maggiore rispetto alla necessità e ciò potrebbe causare problemi e morie. Con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia. Mercato poco attivo con prezzi del mais cedenti venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato fra 34,30 e 34,60 euro al quintale IVA esclusa, il frumento tra 35,50 e 36 euro, l'orzo peso specifico 62,65 tra 31,40 e 31,90. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 9,60 euro il quintale e il frumento di 11,30 centesimi. Scarse contrattazioni all'orto frutticolo di Udine con prezzi in leggero aumento. L'insalata gentile viene quotata tra 2,30 e 2,50 euro al chilo IVA esclusa, la lattuga Trocadero e le zucchine tra 1,60 e 1,80, le melanzane tonde tra 1,50 e 1,70, i peperoni gialli e rossi italiani tra 2,40 e 2,60, i pomodori in grappolo tra 2,70 e 2,80, il radicchio rosso tondo e quello di Treviso tra 2,50 e 2,60, l'uva da 1,80 2,50. Rispetto ad un anno fa, i pomodori in grappolo sono aumentati di 1,20 euro, i peperoni di 60 centesimi, il radicchio rosso tondo di 30. Nel settore della pesca hanno ripreso l'attività dopo il fermo biologico e i prezzi sono diversificati in base al prodotto pescato. Alla cooperativa pescatori San Vito di Merano Lagunare, i branzini suddivisi in piccoli, medi e grandi sono quotati da 18 a 33 euro il chilo IVA esclusa, le orate da 3 a 8, le sogliole da 5,50 a 20, le ombrine da 12 a 28, le canoce da 6 a 10, i palombi da 5 a 12, i laterini da 8 a 10, i gamberi da 15 a 20, le anguille da 20 a 23, le capesante da 13 a 16, le seppie da 13 a 18 e i calamari da 17 a 22 euro al chilo. Infine, le uova oltre 73 grammi provenienti da allevamenti a terra sono a 20 centesimi il pezzo. E con il previsore dell'ARPA Marcellino Salvador diamo uno sguardo al tempo che farà nella settimana entrante. L'arrivo dell'aria fredda, che ieri ha portato la neve sulle Alpi e la bora forte sulla costa, ha concluso un periodo di grande incertezza meteorologica. Nella prima metà di settembre, infatti, il permanere dell'aria calda e umida, associata ai primi disturbi autunnali, ha determinato la formazione di improvvisi temporali con piogge intense localizzate che sulla costa sono state di rilievo storico, come nel caso di Grado. Temporali hanno interessato anche Trieste e in misura minore la pianura. In qualche modo stiamo pagando l'eccezionale caldo estivo che ha riscaldato troppo il mare e gli episodi anche tragici avvenuti sulla penisola ne sono la conseguenza. Passando alle previsioni, osserviamo che nei prossimi giorni avremo sull'Europa occidentale un anticiclone, mentre sull'est Europa permarrà una vasta depressione. Questa configurazione farà fluire correnti da nord sull'Italia. Con il prevalere di correnti settentrionali in quota e di correnti fresche e secche nei bassi strati, la settimana entrante avrà tempo stabile e prevalenza di sole sulla nostra regione. Le temperature minime sui monti e in pianura saranno leggermente inferiori alla norma e in pianura si attesteranno sui 10 gradi, mentre sulla costa, col mare che permane attorno ai 23 gradi, saranno sui 15-17 gradi. Le massime mediamente oscilleranno attorno ai 23 gradi su pianura e costa. In montagna la temperatura media a 1500 metri sarà di qualche grado inferiore alla norma. Il tempo sarà quindi estremamente favorevole alle operazioni di raccolta nei campi, nonché per tutte le altre attività. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo e ai santi. Se San Maurizio fa seren, vintos l'unvier calven, ovvero se il giorno di San Maurizio, il 22 settembre, c'è sereno, l'inverno prossimo sarà ventoso. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Lillo Montalto Monelle, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.